Mary Ferrara, coautrice e regista dello spettacolo G8 Sotto l'ira del sole, a Roma, al Teatro 2, dal 16 al 19 maggio 2019. Mary, ben trovata. Ciao, ben trovato a te. Ci racconti? Sì, allora, lo spettacolo nasce in realtà nel 2015. L'idea era quella di far lavorare i ragazzi all'epoca, diplomandi, su un testo che fosse attuale e quindi fargli sperimentare non solo l'attualità dell'argomento, ma anche una forma teatrale nuova per loro, che era quella del documentario teatrale. Ovviamente drammatizzato, quindi non il solito documentario a lettura o solamente con proiezioni intervallate da racconti, ma un vero e proprio testo drammatizzato per la scena. È stato portato in scena nel 2015, il testo è piaciuto tantissimo, all'epoca la regia era di Francesca Stasch. Abbiamo deciso di riprenderlo con un'altra classe, ovviamente nel 2017, questa volta con la regia di Pietro De Silva, e quest'anno lo riproponiamo con la regia curata da me e con due nuove scene introdotte che sono prologo e epilogo, curate sia nella drammaturgia che nella regia dagli allievi del corso di operatore teatrale. Com'era nato tutto? Casualmente, parlando con il mio socio, che è anche il direttore dell'Accademia Teatro Senza Tempo, Antonio Nobili, abbiamo pensato su cosa facciamo lavorare questi ragazzi e quindi tra le varie ipotesi abbiamo pensato al G8. Abbiamo pensato al G8, io ho contattato questo mio amico, collega che è Alessandro Sabetti, ne abbiamo parlato, lui era entusiasta anche perché lo ha vissuto direttamente, mentre io ho dovuto lavorare da un punto di vista di informazione proprio giornalistica, lui era proprio presente in quei giorni a Genova, quindi ci siamo confrontati e abbiamo deciso insomma di provare a scrivere questo testo. Mi ha lanciato un'idea, da quell'idea poi ci siamo messi a lavorare ed è nato questo contenitore che in parte utilizza personaggi di fantasia. In parte invece racconta proprio i fatti di quei giorni attraverso gli occhi di chi li ha vissuti, quindi della signora che viveva nella zona rossa, per cui ha vissuto tanti disagi, ragazzi che erano presenti nella Diaz, chi era Bolzaneto, sia da un punto di vista della vittima che del carnefice, quindi ci sarà in scena anche un personaggio che rappresenta la Zaccardi. Per cui abbiamo cercato di raccontare attraverso il teatro quello che è stato comunque un evento pesante per l'Italia sotto tanti punti di vista e che comunque continua a non avere una conclusione perché di un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, c'è un'altra sentenza ancora da parte della Corte dei Conti che condanna 24 poliziotti a risarcire 3 milioni per i fatti accaduti nella Diaz e quindi comunque è un evento che tuttora porta con sé degli strascichi, fortunatamente li porta nel senso che nel tempo si sono avute sentenze, si è vista giustizia, laddove spesso purtroppo in Italia non c'è, quindi in qualche modo avere ancora attuale questo argomento con la chiarificazione di tanti punti e con l'attribuzione di tante responsabilità è comunque una realtà e va raccontata affinché la memoria non svanisca, affinché quello che è successo non accada più. Su quale documentazione avete messo mano? Essenzialmente su contributi video, quindi tutto quello che era a disposizione nella rete, per quello che mi riguarda, perché non essendo lì presente, ho lavorato, ecco, su video, su YouTube, su testate giornalistiche che hanno avuto l'esclusiva di alcuni video, su sentenze di processi, c'è addirittura una scena che rappresenta proprio un processo, abbiamo fatto uno studio di oltre 1.000 pagine di questo processo per poter estrapolare qualcosa, i racconti di chi era lì, quindi studenti italiani, stranieri, medici, poliziotti, per cui ci siamo documentati a 360 gradi. Questo perché non volevamo comunque prendere un punto di vista unico. Quindi non è un testo politico, non è un testo pesante, tra virgolette, nel senso che ci sono anche scene di vita normale, perché in quei giorni, fin quando non sono accaduti determinati eventi, comunque c'erano ragazzi speranzosi, c'erano ragazzi pieni di ideali, quindi abbiamo voluto anche sottolineare questo, proprio per trasmettere oggi ai giovani anche questo desiderio di riappropriarsi in qualche modo della capacità di sorprendersi e di avere degli ideali da portare avanti. Come l'avete strutturato lo spettacolo? A scene, questa volta come ho già anticipato, abbiamo un prologo e un epilogo che sono ambientati ai giorni nostri e lo spettacolo ruota su due piani. Da una parte c'è uno scrittore e un drammaturgo che vuole portare in scena un testo e vive questa sua familiarità con la compagna e un altro elemento che vorrei che il pubblico scoprisse in scena. E dall'altra parte ci sono i racconti di queste persone presenti a Genova sotto varie forme che si alternano, non c'è una sequenza temporale, ci sono eventi che vengono vissuti in prima persona, che vengono raccontati post, che vengono in qualche modo vissuti prima di alcuni accadimenti. Che sarà poi di questo spettacolo dopo questa data romana? Il successo che ha avuto in queste precedenti edizioni, che spero di replicare anche in questa, probabilmente si potrebbe ipotizzare di riportarlo in scena o di proporlo anche per le scuole, ma comunque è un documento a 360 gradi e che può essere fruibile, insomma, da qualsiasi utente, quindi dal ragazzo, dall'adulto, dal curioso, da chi vuole ripensare a quei momenti vissuti, non ha, diciamo, vincoli sotto questo punto di vista. È adatto ovviamente a studenti accademici proprio perché è nato con l'idea di far lavorare loro a un testo del genere e vedremo, speriamo, insomma, poi in futuro di poterlo riproporre. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, assolutamente. Allora, noi andiamo in scena, come hai già anticipato tu, al Teatro 2 in Vicolo Due Macelli dal 16 al 19 di maggio. Possono visitare il sito www.teatrosenzatempo.com o prenotarsi via email teatrosenzatempo.biglietti@gmail.com oppure telefonicamente al 349-622-5680. Allora, ricordiamo lo spettacolo G8 sotto l'ira del sole. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice e regista Mary Ferrara. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, grazie.